dorme sul fango. Buona Zava. Il futuro è il mio presente perché è già passato. Se la lancia del destino ti ha già trapassato, è normale nella vita, vieni sorpassato. Da domani tieni duro, ci son già passato. Il futuro è il mio presente perché è già passato. Se la lancia del destino ti ha già trapassato, è normale nella vita, vieni sorpassato. Da domani tieni duro, ci son già passato. Io, mille volte stesso sbaglio, non so neanche se ho imparato. Ho sudato nel travaglio, neanche il mezzo risultato. La fortuna mi ha promesso un bacio che non mi ha mai dato. Mi ha bendato e mi ha lasciato qui, legato al fato. Con la sfiga un bel rapporto ormai ci sono affezionato. Mi ha insegnato che l'imprevisto è sempre in agguato, e di non farsi ingannare dal suono dolce di un flauto. La verità si può nascondere nella voce di un rauco. C'è sempre il povero, il ricco e lo sciagallo. Chi mangia sul cristallo perché ha vinto sul rimpallo. Impara i passi falsi di sto ballo, che ci vorrà il callo se vuoi sopportarlo. Si dice che chi si ferma è perduto, spesso errato. Perché quello che ho perso l'ho già ritrovato. La pace, le sfide, le ride poi seria, dal cielo sereno all'intemperia, dal ghiaccio da Siberia all'affa da Nigeria. E finché respiro me la godo, tanto ognuno se ne va a suo modo. C'è chi l'ha riempita e ci ha lasciato un vuoto. Se la barca affonda me la faccio a nuoto, tanto prima o poi un nuovo mondo lo scopro. Se prima c'è l'odio, l'amore viene dopo. Coraggio, fatti forza, se sta vita non soddisfa, col cazzo che rimborsa. Ti disfa stare in corsa, se la pista è troppo grossa si rischia per farsi la crosta piuttosta. E se non è la prima è la seconda, ricorda, soffrendo gode chi si fa onda. Il futuro è il mio presente perché è già passato. Se la lancia del destino ti ha già trapassato, è normale nella vita, vieni sorpassato. Da domani tieni duro, ci son già passato. Il futuro è il mio presente perché è già passato. Se la lancia del destino ti ha già trapassato, è normale nella vita, vieni sorpassato. Da domani tieni duro, ci son già passato. Io penso e ripenso con la speranza di trovare in questa vita un senso. Non vedo la mia strada perché il fumo è troppo denso. Cerco ancora la felicità in ogni senso, un senso che sia giusto o sbagliato non importa. Tiriamo le spallate per buttare giù la porta, persa alla ricerca di una svolta. Scappo dalla paranoia ma la miccia è troppo corta. Sa che troppa gente sogna di rubare un'altra fetta della torta. Ma dai, la vita è un ciclo, la mia è incazzata perché al ciclo ci scappo sempre, ma mi raggiunge perché fuggo col triciclo. Mi guarda storto ma gli faccio pena, mi dà un bacetto poi mi invita a cena. E spero credo ancora nei miracoli. Mi inviti a ballare ma mi fai ballare su dei trampoli. E poi si incazzano se cado, gioca carte col destino ma lo incontro di rado. Ora sai che penso e ripenso che in questa vita troppo puzza d'incenso. Penso al tuo domani, ad un lavoro nelle mani. Credo ancora nella zingara che mi scruta nelle mani. Ora sai che non ho scampo, cerco ancora quadrifogli su di un campo. Ho visto la colomba bianca ormai stanca di volare. Tante, molte, troppe le lacrime per colpa dell'usura. Qui la notte fa paura, c'è gente che mi dice di tenere duro. Ho troppi fari che mi accecano il futuro. Ma se il futuro è quel che siamo, cerchiamo le parole poi cantiamo. Il futuro è il mio presente perché è già passato. Se la lancia del destino ti ha già trapassato, è normale nella vita, vieni sorpassato. Da domani tieni duro, ci son già passato. Il futuro è il mio presente perché è già passato. Se la lancia del destino ti ha già trapassato, è normale nella vita, vieni sorpassato. Da domani tieni duro, ci son già passato. Ma dai.